La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ancora una volta bentrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nella prima parte di questa puntata, Dino Pesole dedica il suo approfondimento ai preparativi per l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che si celebrerà nel 2011. Ospite ai nostri microfoni Giovanni De Luna. Nella seconda parte, a 30 anni dall'elezione di Giovanni Paolo II al soglio pontificio, vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla vita del Santo Padre. L'appuntamento è per il 2011, ma già si stanno scaldando i motori per un evento che si annuncia di grande importanza per il nostro paese, dal punto di vista storico, ma anche da quello culturale e turistico. Stiamo parlando della celebrazione dei 150 anni dell'Unità Nazionale. È stato costituito un comitato che ha il suo centro operativo a Torino. Obiettivo di questo comitato è di realizzare in primo luogo un grande evento internazionale, come avvenne già nel 1911 per il cinquantenario dell'Unità Nazionale e nel 1961 per il centenario. Sarà dunque ancora Torino la prima capitale del Regno d'Italia a ospitare le principali celebrazioni dell'Unità Nazionale, un'occasione per riflettere su un passaggio fondamentale della nostra storia. Subito dopo l'unificazione fu Camillo Benso Conte di Cavour ad annunciare in Parlamento, era il 27 marzo del 1861, la proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Nel solenne discorso pronunciato da Cavour veniva affrontata direttamente una delle questioni chiave del nuovo Stato unitario, la questione romana, vale a dire la definizione dei rapporti politici e delle sfere di influenza tra lo Stato e la Chiesa. Troviamo echeggiate nelle affermazioni di Cavour il principio chiave del libero Stato in libera Chiesa, questione che, come sappiamo, verrà disciplinata solo diversi anni dopo, nel 1929, con i patti lateranensi. Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta, che Roma, Roma sola, deve essere la capitale d'Italia. Ma qui cominciano le difficoltà. Noi dobbiamo andare a Roma, ma a due condizioni. Noi dobbiamo andarvi di concerto con la Francia. Inoltre, senza che la riunione di questa città al resto d'Italia possa essere interpretata dai cattolici, in Italia e fuori, come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo cioè andare a Roma, senza che perciò l'indipendenza vera del pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma senza che l'autorità civile estenda il suo potere sull'ordine spirituale. Ecco le due condizioni che debbono verificarsi, perché noi possiamo andare a Roma senza mettere in pericolo le sorti d'Italia. Gli eventi che caratterizzarono i primi passi dello Stato unitario saranno al centro di Biennale Democrazia, 5 giorni di appuntamento pubblici che si terranno a Torino dal 22 al 26 aprile del prossimo anno, in concomitanza con le celebrazioni per il centenario della nascita di Norberto Bobbio, il grande filosofo scomparso il 9 gennaio del 2004. Al centro delle iniziative che stanno per vedere la luce vi è il recupero dell'identità nazionale. Thank you. Abbiamo in linea lo storico Giovanni De Luna, che fa parte del comitato organizzatore per gli eventi che vedranno la luce nel 2011. E professor De Luna, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ecco, ci parli un po' di questo discorso sul quale lei sta lavorando, in particolare sul recupero dell'identità nazionale. Sì, guardi, l'iniziativa a cui stiamo lavorando è questa grande mostra che dovrebbe inaugurarsi il 17 marzo del 2011 e chiudersi alla fine di novembre di quello stesso anno. È un evento a cui si prevede parteciperanno quasi 8 milioni di spettatori, furono 6 milioni quelli che visitarono Italia 61 in occasione del centenario. La mostra si svolgerà in un locale di 30.000 metri quadrati, quindi sarà un modo per mettere in scena e rappresentare 150 anni di storia italiana. Ci tengo a dire questo perché non si tratta appunto di raccontare, ma quanto di rappresentare, mettere in scena, allestire, come dire, un percorso espositivo all'interno del quale l'elemento della conoscenza storica possa essere anche declinato lungo i percorsi, diciamo, dell'emotività, della passione, del coinvolgimento emotivo. Ci tengo anche a sottolineare che si tratta di raccontare e mettere in scena 150 anni di storia italiana, perché tutti pensano in qualche modo che l'anniversario del 2011 sia legato alle memorie risorgimentali. No, il Risorgimento è un segmento della nostra storia, ma dopo il Risorgimento c'è stato, come dire, 150 anni di storia. Quindi in realtà la storia che noi racconteremo è una storia essenzialmente novecentesca, il Novecento al centro della nostra attenzione. Direi che il percorso che vogliamo fare è organizzato intorno a un'idea di identità nazionale come progetto. Non esiste un'identità nazionale definita una volta per sempre come entità biologica, deterministica. Esiste un progetto di identità nazionale, un progetto a cui mettono mano vari attori a seconda delle fasi della nostra storia. Prima è stato lo Stato liberale a costruire identità, a costruire gli italiani attraverso le istituzioni, attraverso la scuola, attraverso l'esercito, attraverso, come dire, un impianto pedagogico che cercava di fare gli italiani dopo aver fatto l'Italia. E poi successivamente nel Novecento il fascismo ha avuto un progetto di fare gli italiani, certo, un progetto totalitario, un progetto di integrazione forzata all'interno di quella che non era una nazionalizzazione ma era una fascistizzazione, però era un progetto di identità nazionale. Nell'Italia repubblicana ci sono stati altri progetti, i grandi partiti di massa, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, avevano progetti di identità. Ecco, noi riattraverseremo questi progetti attraverso una chiave, che è quella del meccanismo dell'inclusione e dell'esclusione. E oggi, professore, secondo lei vi sono le condizioni per stimolare una riflessione collettiva su questo tema? Direi di sì, perché, come dire, nel passato gli strumenti di inclusione con cui noi abbiamo superato le nostre fratture nazionali sono stati molto potenti. Penso appunto lo Stato, la fabbrica, il lavoro, sono stati grandi momenti in cui, come dire, le fratture nord, sud, città, campagna, proletariato, borghesia sono state ricomprese in questo meccanismo virtuoso di inclusione. Oggi la sfida è capire quali sono i meccanismi di inclusione che possono funzionare e quali sono le frontiere dell'esclusione. Le frontiere dell'esclusione ovviamente non è più l'emigrazione, non è più il brigantaggio meridionale, non è più le fratture tradizionali della nostra storia del passato, ma sono i nuovi modelli di convivenza da mettere in atto. Il problema è che, guardi, che per la prima volta dopo 150 anni l'altro ce l'abbiamo in casa, e certo, questa è una discontinuità totale rispetto alla nostra storia del passato. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria. In occasione del 30° anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo II, vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla vita del Santo Padre. Quando nel 1920 Karol Wojtyla nasceva in una piccola città della Polonia, nessuno sospettava che sarebbe arrivato a guidare oltre 1 miliardo di cattolici sparsi in tutto il mondo, diventando una delle figure più influenti del XX secolo. È un viaggio straordinario quello che lo porta in Vaticano. Un viaggio segnato dalla violenza e dalla tragedia, dal confronto faccia a faccia con il male della guerra. Questa è l'incredibile storia dei 5 anni che cambiano la sua vita fino a portarlo al soglio pontificio. Il primo giorno di settembre del 1939, quasi 2 milioni di soldati tedeschi attraversano il confine polacco. È uno dei primi passi della campagna con cui il nazismo vuole estendere il suo potere su tutta l'Europa. Un passo che precipita il mondo nella Seconda Guerra Mondiale. A meno di 150 chilometri dal confine tedesco, nella città di Cracovia, lo studente Karol Wojtyła aiuta a servire la messa. Il Blitzkrieg tedesco si abbatte sulla Polonia. Quasi tutto il paese viene invaso in 4 settimane. Cracovia cade dopo appena 5 giorni. Karol Wojtyła scappa dalla città poche ore dopo il primo attacco. Per le strade si unisce agli oltre 80.000 profughi che si dirigono a est. Solo 2 cose gli premono in questo momento: fuggire e prendersi cura del padre, che ha problemi di salute. Dopo più di 2 settimane di cammino, Karol e suo padre si trovano a circa 200 chilometri da Cracovia. Con i loro compagni sperano di trovare protezione dietro le linee dell'esercito polacco in ritirata, ma alcuni profughi che stanno tornando sui loro passi portano notizie sconfortanti. La Russia ha invaso la Polonia da est. Gary O'Connor, biografo. Un proverbio polacco dice: i tedeschi distruggono il corpo, ma i russi annientano l'anima. Nella scelta tra 2 tremende alternative, una vita sotto i tedeschi appariva leggermente preferibile a una sotto i sovietici. Il 5 ottobre l'invasione tedesca è ultimata. Karol e suo padre ritornano nella Cracovia occupata, dove una bandiera con la svastica sventola sul castello di Wawel. Per i successivi 5 anni saranno prigionieri nel loro paese. Karol è arrivato a Cracovia un anno prima, nel 1938. Ha lasciato la sua piccola città natale di Wadowice per studiare nell'antica università Jagellonica, il cui prestigio è pari a quello delle più celebrate università d'Europa. Come per molti polacchi, la religione è parte della sua vita quotidiana, ma Karol non pensa di diventare un sacerdote. La sua ambizione è un'altra. George Wigel, biografo. Era un giovane davvero intelligente, con spiccate doti sia artistiche che intellettuali. A quanto pare era molto popolare nell'ambito universitario. Uno studente dotato che aveva tanti amici e a cui piaceva la vita degli universitari. Nel novembre 1939, 2 mesi dopo l'invasione, il governo nazista si rivela molto più crudele di quello che Karol Wojtyła e i suoi concittadini avrebbero mai potuto immaginare. 174 professori, alcuni ultra settantenni, vengono arrestati e deportati in un campo di concentramento in Germania. 50 di loro non faranno ritorno. I giorni da studente di Karol finiscono brutalmente. Tutte le università della Polonia vengono chiuse, come anche i licei, i musei e le biblioteche. Padre Michael Zafarski. Molte persone vennero deportate in Germania. Spesso i nazisti le radunavano per strada. Li ho visti sparare ad un uomo e ucciderlo proprio davanti a me. I tedeschi credevano di essere la razza padrona, mentre noi eravamo solo dei subumani. Nel dicembre 1939, quasi 30.000 polacchi sono già stati internati nei campi di lavoro forzato in Germania. I nazisti iniziano a imporre una serie di leggi severissime sul popolo polacco, una delle quali rischia di avere conseguenze drammatiche per Karol. Tutti i maschi tra i 14 e i 60 anni possono essere mandati in campi di lavoro tedeschi, a meno che non prestino già servizio in un settore giudicato utile dai nazisti. Karol sa di non essere al sicuro. Se fosse deportato, verrebbe separato dal padre malato e rischierebbe di non vederlo mai più. Edward Stoughton, biografo. Io credo che il padre fu una delle figure più importanti nella vita di Karol Wojtyła. Era un militare in pensione. Da tutte le testimonianze che abbiamo, emerge il ritratto di un uomo dall'integrità granitica, di un uomo profondamente devoto, che dimostrava al figlio che la preghiera e la virilità non erano inconciliabili. Un uomo che dedicò gli ultimi anni della sua vita all'istruzione e al sostegno del figlio più giovane, l'unico che gli era rimasto. Nel settembre 1940 Karol impara a conoscere il duro lavoro. Con l'aiuto di alcuni amici riesce ad ottenere un posto in una cava di pietra calcarea dove si estraggono i materiali grezzi destinati alla produzione di esplosivi. Ancora Edward Stoughton. Era un lavoro duro, ma credo che lo abbia fatto avvicinare agli operai, a quella classe di persone che lavorano con le mani, così diverse da chi lavora con la mente. Fu un'esperienza che si portò dietro anche durante il suo papato. Fu sempre orgoglioso di quell'esperienza. Poi un giorno, 6 mesi dopo aver iniziato il lavoro nella cava, Carol torna a casa e trova la scena che ha sempre temuto. La morte del padre lo colpì profondamente. Era inevitabile perché il padre era stato una figura di riferimento per lui. Credo che a quel punto Carol sentì che doveva fare del suo meglio per realizzare le aspettative del padre. Rimasto orfano e solo al mondo, Carol Wojtyła reagisce con una nuova determinazione. Sopravvivere non è più abbastanza. Decide di unirsi al movimento di resistenza polacca. Il movimento ha 2 ali, una armata e l'altra culturale. La cultura polacca è stata quasi totalmente soppressa dal dominio nazista e Carol, uno studente di letteratura, lancia la sua sfida nel modo che sa fare meglio. Eugenius Mroz. Carol ci aiutò a mettere su un gruppo teatrale segreto, il Teatro Rapsodico, che fu un grande successo. Io ero un soldato della Resistenza Armata, l'esercito del paese. Noi combattevamo con le armi in mano, ma Carol combatteva con le parole per proteggere lo spirito polacco. Diceva che essere un attore non è solo un lavoro, ma una missione per cercare di rendere le persone più nobili. Dalla morte del padre, il teatro è diventato l'unico scopo della vita di Carol. Ma è la Chiesa che gli dà il senso dell'appartenenza. Nel maggio 1941, un raid nella chiesa che Carol frequenta lo priva di una delle poche cose che gli sono rimaste. Da sempre i tedeschi guardano con sospetto alla Chiesa cattolica in Polonia, ma temono che la sua messa al bando scatenerebbe una ribellione. Così si limitano a chiudere numerose chiese e a consentire ad altre solo 2 messe a settimana, spesso sotto la sorveglianza dei soldati della Gestapo. Nessun dissenso da parte del clero è tollerato. 12 sacerdoti della parrocchia di Carol, San Stanislao Kocka, sono accusati di incitamento alla ribellione. 8 di loro moriranno ad Auschwitz. Come molti altri, a Carol non resta che pregare da solo. In questo vuoto si fanno avanti degli autoproclamati evangelisti che offrono aiuto e guida spirituale. Uno di loro avrà una profonda e drammatica influenza su Carol. Il suo nome è Jan Tiranowski. George Wigel, biografo. Tiranowski aveva studiato da contabile, ma all'epoca faceva il sarto nella stanzetta che aveva in affitto. Qui portava i ragazzi che reclutava e parlava loro di San Giovanni della Croce, un grande mistico che diventò molto importante nella vita di Carol. Carol diventa membro del gruppo di Tiranowski, un atto di resistenza e di sfida al tentativo nazista di controllare la Chiesa. Nella primavera 1942, i nazisti iniziano a mettere in atto la soluzione finale: il sistematico genocidio della popolazione ebrea. Ancora Edward Stoughton. A quel tempo erano elementi del tutto casuali a decidere la vita o la morte di una persona. E credo che questa sia un'esperienza che segna profondamente un individuo, specie un giovane molto riflessivo come Carol. Riuscì ad attingere alle risorse che aveva per sfuggire a quella situazione, e in particolare alle risorse che gli dava la religione, per cui guardava alle certezze della Chiesa cattolica come a qualcosa a cui aggrapparsi in quel caos morale. Per 3 anni Carol vive le atrocità quotidiane della vita nella Cracovia occupata. Presto mostrerà la fede che sta crescendo sempre più forte dentro di lui. Carol ha scoperto la sua vocazione e il suo maestro Jan Tiranowski non gli basta più. Così si rivolge alla guida della Chiesa cattolica in Polonia, l'arcivescovo Sapieha. Dopo l'invasione i nazisti hanno bandito ogni corso di formazione per nuovi sacerdoti, ma l'arcivescovo tiene un seminario segreto a casa sua. Sapieha è una figura di riferimento per i cattolici di tutta la Polonia. È rimasto quando altri alti prelati sono fuggiti dai tedeschi. Nell'ottobre 1942 Carol arriva nel palazzo del vescovo. Sapieha istruisce una nuova generazione di sacerdoti che deve prendere il posto dei preti assassinati dai nazisti. Carol si unisce ai giovani del seminario segreto del vescovo. Sono tutti ragazzi che si preparano al futuro. Nell'estate 1944 il vento inizia a soffiare a sfavore dei tedeschi. In tutta Europa cresce la speranza della liberazione. A Varsavia, il 1° agosto, la resistenza polacca insorge contro i nazisti in una sanguinosa lotta per la libertà. La rappresaglia nazista è più feroce ed estesa di tutte quelle che la gente di Cracovia ha potuto vedere. Quel giorno sarà ricordato come la Domenica Nera. I nazisti sono intenzionati a catturare ogni giovane che possa rappresentare una minaccia. L'arcivescovo Sapieha ha accolto tutti i suoi seminaristi nel tentativo di proteggerli dalla rappresaglia. Nel Natale del 1944 a Cracovia si diffonde la speranza che la fine della guerra sia vicina. I russi si stanno facendo strada attraverso le linee tedesche per liberare la città. Finalmente il 18 gennaio 1945 i nazisti vengono cacciati da Cracovia. Karol e i suoi amici sono liberi. Josef Wilke. Fu una sensazione bellissima. Potevamo di nuovo sperare, avere la speranza che un giorno la Polonia potesse di nuovo essere un paese libero. L'occupazione tedesca della Germania è finita, ma i festeggiamenti sono segnati dal dolore per tutti coloro che sono stati uccisi o che sono scomparsi. 6 milioni di polacchi sono morti, quasi un quinto della popolazione. Karol continua a studiare con il suo mentore, Sapieha, che nel frattempo è diventato cardinale. Nel novembre 1946, all'età di 26 anni, Karol viene ordinato sacerdote. 10 giorni dopo essere stato ordinato, Karol celebra una delle sue prime funzioni, battezzando la figlia della sua cara amica, Alina Kwiatkowska. Quella fu la sua prima cerimonia da sacerdote. Si vedeva che era nervoso e Monica, la mia bambina, piangeva molto, ma tutto andò benissimo. 4 giorni dopo il battesimo della bambina, Karol lascia Cracovia per recarsi in Italia. Il cardinale Sapieha gli ha ordinato di continuare i suoi studi a Roma. Il giovane rimane fedele alle convinzioni che ha maturato durante la guerra. È così che percorre rapidamente tutta la gerarchia della Chiesa polacca, fino a quando, nel 1978, ascende al soglio pontificio appena 30 anni dopo essere stato ordinato sacerdote. Karol Wojtyła sarà Papa Giovanni Paolo II. Prima di chiudere, vi segnaliamo che all'interno del GR d'Oltretevere di domani, alle 8.15, andrà in onda un'intervista esclusiva con il cardinale Camillo Ruini sulla figura del Santo Padre. Inoltre, questo documentario sarà trasmesso domenica 19 ottobre alle 22 su History Channel, col titolo Karol Wojtyła, un Papa in guerra. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte. La storia e la memoria torna tra poco. Restate con noi.